Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, la nostra rubrica dedicata alla stampa periodica. Segnalazioni di articoli, approfondimenti, letture di cose interessanti dalla stampa italiana ed estera, purché non stampa quotidiana. E allora cominciamo questa mattina con un mensile e cominciamo con una di quelle domande un po' universali e senza tempo sull'invidia. Siete invidiosi? Probabilmente la vostra risposta sarà no. Da cosa trago questa convinzione? Da un articolo che ho trovato su Focus. Focus questo mese dedica proprio la sua copertina all'invidia. Addirittura dice come superare l'invidia e avverte già dalla copertina: tutti la vivono, nessuno la confessa. Fa male a chi la prova, ma si può trasformare in uno stimolo, quindi in una cosa positiva. Ma vediamo un attimo com'è che viene raccontata questa invidia, che è un sentimento universale, peraltro un peccato notissimo e antichissimo. Innanzitutto ci sono delle necessità di definizione dell'invidia. L'invidia può essere una stretta che si prova perché si esce perdenti da un confronto sociale, si sperimenta quando un altro ha qualcosa che noi vorremmo, oggetti, posizione sociale, qualità come la bellezza, il successo in amore. La spiegazione viene presentata da Focus, affidata a Valentina D'Urso, che insegna psicologia generale a Padova ed è tra l'altro autrice di un recente volume proprio su psicologia della gelosia e dell'invidia, il titolo Otello e la mela, quindi anche qui siamo proprio su due paradigmi universali. È la sofferenza, spiega la D'Urso, dovuta a un confronto perdente con qualcuno importante per noi, vicino a noi, più spesso in un campo che è importante per noi. Può essere appunto un'emozione o anche diventare un sentimento duraturo, una sorta di malessere, di inadeguatezza che poi sfocia in una malevolenza verso la persona invidiata. Perché però abbiamo così ritrosia ad ammettere di essere invidiosi? Perché, spiega la D'Urso, l'invidia è l'emozione negativa più rifiutata in quanto contiene due elementi disonorevoli. Il primo è l'ammissione di essere inferiore e poi l'altro, il tentativo, la voglia di danneggiare l'altro ma senza gareggiare con lui in viso aperto, con lui o con lei in viso aperto, bensì in un modo subdolo che quindi è considerato meschino anche da noi stessi che lo mettiamo in atto. Si prova soprattutto per chi è simile a noi, e questo è abbastanza comprensibile, cioè per persone che si considerano paragonabili come condizione di partenza. Ad esempio, per una donna è bruciante, spiega Focus, il confronto con la conoscente che è bella e corteggiata, più che quello astratto e sproporzionato con una top model che evidentemente può essere considerata giustamente meritevole di un maggiore successo. Ad esempio, si invidia il collega che è stato promosso con lo stesso meccanismo sul lavoro, ma magari non si invidia il direttore generale. Allora, questo diciamo è un po' la caratteristica di base. Come poi questa invidia possa essere realmente dolorosa è stato addirittura dimostrato ad esempio da uno studio che è stato condotto da un gruppo di scienziati giapponesi, e lo spiega sempre Focus. Cosa hanno fatto? Hanno analizzato con la risonanza magnetica che cosa accade nel cervello dei partecipanti che sono stati sottoposti a un test. A questi partecipanti è stato chiesto di immedesimarsi in situazioni con diversi personaggi di fronte a personaggi simili a loro, però un po' più brillanti su aspetti per loro rilevanti, appunto può essere il lavoro, il guadagno, il successo in tutti i sensi. Ecco, allora di fronte a questo scattava l'invidia. Nel loro cervello, è stato notato proprio utilizzando la risonanza magnetica, aumentava l'attivazione della corteccia cingolata anteriore dorsale. Tanto maggiore era l'aumento di attività quanto più intensa era l'invidia che il partecipante diceva di provare. Ora, cosa sia la corteccia cingolata anteriore dorsale? Non ve lo saprei spiegare con precisione, ma leggo qui che è legata proprio all'elaborazione del dolore fisico o sociale. Quindi c'è una correlazione proprio fisica tra il nostro sentire invidia e uno stato proprio di malessere anche fisico, e questo sta poi a indicare come l'invidia prolungata possa portare anche dei disturbi. Però non tutto è negativo nell'invidia. L'invidia è in realtà, ed è l'ultima nota di questo servizio che viene presentato, ripeto, da Focus questo mese, è in realtà anche una molla importante, perché è il meccanismo psicologico che avverte che qualcun altro ha guadagnato un vantaggio rispetto a noi, e questo meccanismo ci dà la spinta per ottenere lo stesso. Quindi nel corso dell'evoluzione, avvertono gli scienziati, l'invidia in realtà si è rivelata più un beneficio che un danno per la specie umana, perché gli individui invidiosi, che giudicavano il loro successo sulla base della posizione rispetto ai rivali, hanno investito più sforzi per raggiungere lo status e le risorse che ritenevano di meritare. In questo modo, allora, l'emozione diventa una chiamata all'azione. C'è un'invidia naturalmente maligna, quella che cerca più che altro di danneggiare l'invidiato, ma c'è anche una invidia cosiddetta benigna, cioè quella che porta all'emulazione dei comportamenti. Questa è una emulazione benigna che in qualche modo fa avanzare, fa migliorare, ci porta a dare il meglio di noi stessi. E sicuramente c'è ancora molto da invidiare per le donne che non riescono a sedere nei consigli di amministrazione. Voi sapete che se ne parla periodicamente, è un tema legato naturalmente alle pari opportunità, tuttavia è un dato di fatto che non solo in Italia, ma nella gran parte dei paesi europei, la presenza di donne nei posti di comando è ancora decisamente inferiore al numero di donne che studiano, che hanno sicuramente le caratteristiche, le capacità per occupare quei posti. La questione viene ripresentata perché la troviamo normalmente, non dico tutte le settimane, ma quasi, sui magazine e sui quotidiani, da Nouvel Observateur. Nouvel Observateur dice con un po' di rammarico: i macho della borsa francese, i macho del listino di Parigi. Perché? Perché mette a confronto una statistica in cui si vede che in Norvegia c'è una percentuale di donne nei consigli di amministrazione che è del 41% sul totale, in Svezia del 27%, in Germania del 13%, nel Regno Unito del 12%, e solo dopo il Regno Unito arriva la Francia con una presenza di donne in ragione del 9% nei consigli di amministrazione nelle società quotate a Parigi. Ecco, devo proseguire nella classifica per trovare il dato che riguarda l'Italia. Turchia 9%, alla pari della Francia. La Spagna 8% e decisamente più indietro l'Italia, con un 4% di presenza di donne nei consigli di amministrazione delle società quotate. Peggio di noi il Portogallo con il 3%. Poi da Nouvel Observateur ricavo anche l'informazione che in Francia, complessivamente, parlando proprio in termini numerici, le donne sono 59 su 561 posti nei consigli di amministrazione delle società quotate al listino. Allora, visto che vi ho dato un po' di cifre, ho trovato ancora su Focus di questo mese una serie di segnalazioni decisamente interessanti, quando non addirittura divertenti. Innanzitutto vi dico da dove sono state tratte. Esiste un libro, avverte Focus, gli autori sono Lawrence Weinstein e John Adam, che si intitola Più o meno quanto l'arte di fare stime sul mondo. Da questo libro, questi due signori sono due docenti di fisica e matematica a Norfolk, negli Stati Uniti, e da questo libro i redattori di Focus hanno tratto una serie di risposte, di calcoli, di cifre che sono decisamente divertenti. Ad esempio, quant'è la potenza in calore che viene emessa da una persona? Più o meno, calcolando appunto, vi risparmio i calcoli anche perché non sarei bravo a riferirveli, gli esseri umani emettono più o meno la stessa quantità di calore di una lampadina da 100 watt, e tra l'altro altro questo è un dato che architetti e ingegneri devono tenere presente quando progettano i sistemi di riscaldamento, di condizionamento dei teatri, degli aerei, insomma di quei luoghi chiusi, di quelle strutture che sono fatte per persone, per contenere persone numerose. Un altro dato curioso: quanto sono lunghi in media tutti i capelli di una donna? Vi do subito la risposta: circa 10 chilometri se il taglio dei capelli è all'altezza delle spalle, come nella maggioranza, diciamo, come secondo un taglio che va per la maggiore. Come si arriva a tutto questo calcolo? Anche qui ve lo risparmio, ma stimando che i capelli femminili possono essere lunghi tra 1 e 1 centimetro e un metro, e che quindi una media potrebbe essere intorno ai 10 centimetri, che porterebbe all'altezza delle spalle, moltiplicando il numero dei capelli per la lunghezza eccetera, si arriva ai 10 chilometri. Però avvertono sempre Focus, ci sono donne che possono arrivare ad avere una lunghezza complessiva di capelli pari a 100 chilometri, quindi 10 volte tanto, naturalmente se i capelli sono tenuti abbastanza lunghi. E poi ancora una lunghezza, prima di fermarci per le informazioni sul traffico: quanto è lungo tutto il DNA che è contenuto nel nostro corpo? È un numero che spero di riuscire a leggere correttamente: 10 alla 14esima metri. Quindi, tanto per darci un'idea, per quanto generica possa essere, fa 700 volte la distanza che sta tra la Terra e il Sole. Il calcolo qui è decisamente troppo complicato per riferirvelo. Focus in realtà questi calcoli poi li spiega tutti, cioè spiega come si arriva a fare questo tipo di stime, ma se noi dovessimo appunto sdraiare tutto il DNA del nostro corpo arriveremo a questa distanza davvero iperbolica. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, stavamo parlando di numeri davvero un po' curiosi, quelli riferiti da Focus questo mese, su appunto calcoli come quanto possono essere lunghi i capelli di una donna o quanto lungo può essere tutto il DNA contenuto nel nostro corpo. Cambiamo completamente argomento, ci sono due servizi che si richiamano l'un l'altro tra un periodico straniero e uno italiano. Sto parlando di Newsweek e di Vanity Fair. L'argomento non è dei più lieti, anche perché si parla di depressione, ma di depressione e di possibili cure per la depressione, perché la depressione è un malanno decisamente diffuso e si discute sulla efficacia dell'utilizzo dei farmaci. Polemicamente Sharon Bigley sul Newsweek dice che gli studi suggeriscono che i farmaci più popolari, più diffusi, non sono più efficaci di un placebo. Sapete che il placebo è un medicinale finto, cioè qualcosa che si dà al malato, ovviamente senza farglielo sapere, per stimolare la sua risposta di tipo psicologico, ma in realtà non contiene principi in grado di migliorare i suoi sintomi. Eppure funziona e quindi riesce a ottenere comunque dei risultati. Cosa spiega Sharon Bigley? Spiega che innanzitutto parte da una sorta di dilemma medico. Dice: rivelare o non rivelare alla mia amica che mi chiede un rimedio per uscire finalmente dalla sua depressione, che i farmaci che sta usando in effetti possono avere una rilevanza, un effetto inferiore a quello che lei si aspetta. Beh, alla fine dice il discorso va posto in un modo un po' differente, perché non è che i farmaci siano completamente inefficaci, ma il fatto è che la depressione può ottenere molto di più se accompagnata dalla psicoterapia. Si riferiscono una serie di studi che tra l'altro appunto hanno un po' drasticamente dimostrato come gli effetti dei placebo siano paragonabili in alcuni casi di depressione, non per tutti, all'effetto dei farmaci veri e propri, e quindi da lì tutto il ragionamento che viene svolto dalla Bigley. La stessa questione viene sollevata da Vanity Fair. Fair. Vanity Fair, in un articolo di Paola Emilia Cicerone, si occupa pure della depressione. Dice che è il male del nostro secolo. Ci sono risultati di una nuova ricerca che è stata fatta proprio sulle donne, che sarebbero più esposte rispetto agli uomini alla depressione, e il dato a sorpresa di questa ricerca è che rischiano di più la depressione le donne più giovani. Però anche qui si avverte che c'è una sorta di scetticismo nei confronti degli psicofarmaci. È più apprezzata la psicoterapia, che è considerata efficace da oltre l'80% del campione delle donne che sono state interpellate. L'indagine è stata promossa da ONDA, che è l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, e che ha scelto, come spiega Paola Emilia Cicerone su Vanity Fair, di occuparsi di questa patologia perché riguarda la salute della donna in modo trasversale, dall'adolescenza fino alla menopausa. Il 75% delle donne considera la depressione una patologia difficile da trattare, addirittura incurabile. Questo è un atteggiamento che viene però confutato, che viene respinto dagli esperti che vengono sentiti da Vanity Fair. Anzi, spiega ad esempio Claudio Mencacci, che è uno degli psichiatri che vengono interpellati, una terapia adeguata riduce notevolmente il rischio di ricadute. Dopo un primo episodio depressivo c'è un rischio di ricadute del 50%, che però aumenta se la depressione si ripropone. Quindi l'importanza è anche quella di riconoscere i campanelli di allarme. Un dato importante e in qualche modo contraddittorio è che solo una minoranza delle donne interpellate si rivolge agli specialisti. Il 23% delle donne che sono state intervistate da questo sondaggio di cui riferisce Vanity Fair chiede aiuto a familiari o amici. Il 17% cerca di farcela da sola. Un terzo si rivolge al medico di base, che in genere propone una terapia farmacologica. Però c'è il rischio che vengano prescritte dosi molto basse o per periodi brevi. L'indicazione quindi è quella abbastanza ragionevole, direi, se non scontata, di rivolgersi a uno specialista. E la psicoterapia poi gioca un ruolo fondamentale. Le linee guida più innovative, che sono quelle di lingua inglese, per la depressione depressioni medie e medio lievi, indicano come intervento più efficace la terapia cognitivo-comportamentale. Addirittura Mencacci dice che la psicoterapia nei casi meno gravi ha un'efficacia analoga a quella dei farmaci. Quindi con questo chiudiamo perfettamente il cerchio sulla efficacia o meno dei farmaci per curare la depressione. La psicoterapia riesce in alcuni casi, anzi nei casi appunto, come indica Mencacci, meno gravi, a essere altrettanto efficace quanto i farmaci, che invece possono avere una rilevanza decisamente ridotta. Ora, non è per insistere sulle cose della mente e del cervello, però riprendendo Focus in mano mi viene in mente che proprio questo mese parliamo di come leggiamo, quindi siamo sempre in quest'area un po' dell'utilizzo del nostro cervello. Perché Focus si fa questa domanda? Perché è innegabile che l'utilizzo dei personal computer, l'utilizzo anche della rete internet, di tutte le cose che ci possono star dentro, pensate a Facebook, ai social network, ai telefonini, a quello che volete, insomma, ha cambiato un po' la nostra abitudine di lettura, le nostre abitudini di lettura. E quindi Focus si interroga proprio sul fatto che internet potrebbe mutare il nostro modo di leggere. Ad esempio ci segnala: leggiamo di più ma siamo meno abituati a leggere testi lunghi. È un po' il fenomeno che abbiamo visto anche più in piccolo nelle trasmissioni televisive e nei film. Man mano che l'offerta è aumentata, sopportiamo di meno film in cui succedono meno cose. Ci siamo abituati a messaggi anche molto brevi, a storie in pochissimi secondi sul modello degli spot pubblicitari. In questi cambiamenti nel nostro rapporto con la lettura è interessante una statistica che viene presentata proprio da Focus sul peso della stampa nelle informazioni complessivamente consumate. Perché è stato fatto uno studio negli Stati Uniti, ma il dato credo che possa essere affidabile anche per l'Italia, su quanto pesano la stampa, la radio, il telefono, la televisione, i computer nelle informazioni che vengono consumate dai lettori, in questo caso i lettori degli Stati Uniti. misurate come quantità di parole, quindi quante parole ci arrivano attraverso la carta stampata, quante attraverso il computer, quante attraverso la televisione. E il dato è progressivo, quindi si vede come nel 1960 la TV occupasse per gli americani più o meno la metà delle informazioni veicolate e la stampa circa un quarto, il 26%. 20 anni dopo, nel 1980, era aumentato in modo considerevole, intorno al 60-65%, il peso della TV, quindi sempre più informazioni venivano prese dalla TV, ed era sceso drasticamente il ruolo della stampa, che stava al 26%, 20 anni prima era già sceso al 12%. Nel 2008, secondo questa ricerca, la stampa è scesa al 9%, ma anche la TV è scesa al 45%. Perché? Perché è arrivato il computer. Il computer oramai è un terzo delle informazioni. Insomma, di tutto quello che leggiamo, o fatto 100 quello che leggiamo, nel 27% dei casi lo abbiamo letto sul computer, nel 9% soltanto dei casi lo abbiamo letto su la stampa, e il resto delle informazioni nel 45% dei casi ci è arrivato dalla televisione. Alla radio un ruolo abbastanza costante che oscilla tra un 24% del 1960, qualche cosa meno, qualche cosa meno ancora, ma con buone presenze sempre confermate anche nel 1980 e nel 2008, e direi che questo è uno dei dati positivi che possiamo trarre da queste modifiche che ci vengono segnalate appunto nelle nostre abitudini di lettura su Focus di questo mese. Allora, un'ultimissima cosa per chiudere, da Sorrisi e Canzoni, un personaggio che sta diventando sempre più invadente in qualche modo, una cantante, Lady Gaga. Perché vi parlo di Lady Gaga? Perché la storia di questa cantante, che è ormai un successo mondiale, è assolutamente invece, se volete, ordinaria. Cioè, questa è una ragazza che a 4 anni suonava il piano, ci avverte Maria Giulia Comolli sul numero di Sorrisi e Canzoni. A New York ha studiato in una scuola cattolica, la stessa di Caroline Kennedy e però anche di Paris Hilton, e poi ha preso questa virata particolarmente eccentrica che probabilmente avete visto nei video, avete ascoltato nei suoi dischi. Questa signora in questo momento è ai vertici delle classifiche mondiali, è utilizzata per gli spot più diversi da noi in Italia, per gli spot di una compagnia telefonica, sta per arrivare, proprio dovrebbe debuttare questa settimana, la settimana prossima, scusate, il 12 febbraio, un nuovo singolo che probabilmente darà un ulteriore incremento alla signora. La signora che è nata Joanne Stefani Angelina Germanotta, è nata a New York da agiati genitori italo-americani. Da tutto questo poi la trasformazione invece in personaggio di culto della musica mondiale. Con questo vi saluto, ci risentiamo se volete domani mattina alle 8:30 per nuove segnalazioni dalla stampa periodica. Io ringrazio Pietro Lacorte, Manuela Sicuro e Vittoria Mussini che mi hanno aiutato a mandare in onda e a preparare questo programma. A domani.